Abbiamo letto da qualche settimana questo piccolo striscione che è esposto qui fuori davanti al Palazzo d'Accursio con scritto fermate il genocidio. Noi pensiamo invece che quello striscione dovrebbe recitare fermiamo il genocidio. E quindi noi ci aspettiamo che il Comune di Bologna e le istituzioni locali, coerentemente con quanto è stato dichiarato rispetto all'intenzione, no, di mobilitarsi da una parte per mettere fine al genocidio di Gaza e dall'altro per fare in modo che Israele cessi ogni tipo di attività che vada nella direzione del genocidio, quindi sia dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista economico. Quindi per questo motivo noi chiediamo al Comune di mettere in campo iniziative concrete per interrompere tutte le relazioni di carattere politico, diplomatico e commerciale con Israele. Per esempio nelle farmacie comunali, dove il Comune di Bologna partecipa con una percentuale, sappiamo che vengono somministrati farmaci riconducibili a una multinazionale farmaceutica israeliana, quindi chiediamo intanto di sospendere la somministrazione di questi farmaci. Poi anche rispetto agli appalti, noi sappiamo che per la costruzione del tram è stato affidato un appalto all'Alstom Ferroviari, che è un'azienda che ha partecipazione capitali israeliani, quindi anche su questo chiediamo che si interrompano le relazioni commerciali con questa azienda. Siamo come organizzazione sindacale impegnati da subito rispetto a un tema che è più di carattere generale, che riguarderà la mobilitazione contro la finanziaria di guerra che sta venendo avanti in questi giorni. Già il governo ha presentato il documento programmatico di finanza pubblica, dove ci sono tagli lineari a sanità, istruzione, welfare, mentre invece vengono confermati tutti gli impegni presi con la NATO per quanto riguarda il progetto Rearm Europe, e quindi il governo da qui ai prossimi 3 anni metterà in campo 23 miliardi di euro nelle prossime leggi di stabilità, in quella di quest'anno e le successive, per appunto trovare le risorse per poter finanziare il Rearm, quindi finanziare la guerra, senza che ci sia il rispetto del patto di stabilità con l'Europa, no? Perché questa è la cosa da denunciare. Quando si tratta di trovare le risorse per finanziare la sanità, l'istruzione, il welfare, per fare una politica per esempio di aumento dei salari, c'è sempre il vincolo del patto di stabilità, mentre invece con il Rearm Europe il vincolo del patto di stabilità non c'è, quindi tutti i governi possono liberamente investire risorse che vanno nella direzione della guerra. Agire localmente vuol dire incalzare le istituzioni locali nella loro responsabilità rispetto a come si debbono relazionare con lo stato genocida di Israele. E lei non crede che bloccando alcuni farmaci di questa azienda farmaceutica possa creare dei disagi alla popolazione che magari ne ha bisogno? No, perché io per esempio sono il caso emblematico, io sono una persona che ha una terapia farmacologica quotidiana. Quando mi è stato chiesto mi sono stati proposti questi farmaci, ho rifiutato e mi sono stati sostituiti con farmaci di altre marche. Quando mi è stato proposto di acquistare il farmaco a marchio Teva, ho detto che aderivo alla campagna di boicottaggio e mi hanno sostituito con farmaci con altri.